Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a questa puntata di Lucciole nelle tenebre. Siamo all'ultima puntata dell'anno qui in studio Stefano e tanti altri che si presentano in questo momento: Valentina, Flavia, Eleonora, Marta, Benedetta, Fabio, Carmelo. Siamo tantissimi. Siamo veramente ne manca tanti. Ancora una che non vuole presentare una che le e che presenteremo noi. Bellissima, cioè, una new entry, timidissima. Laura. Siamo tanti, è una puntata che va un po' così a braccio, quindi non abbiamo in realtà. È la nostra solita puntata di fine anno, alla esatto, fine. Esatto, come sicuramente è la puntata, puntata dei saluti. Milioni di spettatori, sapete che facciamo una puntata di fine anno molto cazzona, andiamo avanti. Forse non riuscite a immaginarci, però siamo una decina tutti stipati in questa e stiamo sudando. Piccolissima, fa caldissimo. Il termometro dava 32 gradi alle 8 e mezza. Flavia non doveva dire stasera perché in teoria stiamo andando in onda ma a luna, però vi abbiamo svelato questo che pomeriggio sera. Adesso fa caldissimo in questo sole cuocente qua fuori, una cosa impressionante, spacca le pietre proprio in questo venerdì, la serranda aperta. Beh dai, che cosa parliamo in questa puntata? Quindi essendo la puntata buona, non so, dell'ultimo anno, lo è vero, no, c'è stata anche la luna strafega l'altra sera, già diciamo, ma voilà. Le notizie di Fabio, cuffie è fatto. Scientifica abbiamo fatto. Beh, parliamo. Boh, potremmo parlare di quello che facciamo quest'estate. Fabio, e calò in silenzio. Fabio, oltre a studiare, cosa fai? Vado, servo come cameriere in una rievocazione medievale. Sono le gaite. Ma sei anche tra. Andrò in piazza Magna. Foto! Abruzzese. Perché abruzzese? Sei umbro. Perché. Le pecore. Abruzzese. Il pastore abruzzese che andava in giro. Ah, ok. Pensavo fossero sarde le pecore. No, abruzzesi pure. No, i sardi vanno con le pecore. Mancanza di altri, questa è la storia. Fabio sta scherzando. Grazie Fabio per il tuo contributo. Ma voi avete mai sentito la barzelletta della cammella? No, no, forse non è il caso di raccontarla. Comunque un barcone di 10 donne tunisine completamente nudi ha sbarcato in Sardegna e i sardi l'hanno ospitata di loro volontà, non l'hanno fatta andare sui centri di accoglienza. Ragazzi, questa puntata finale ci genera tante sorprese. E in realtà potremmo lanciare una canzone arrivati a 3 minuti di trasmissione. Io volevo ascoltare la barzelletta della Vale, sì, però. Beh, sì, prima no, quella e però poi. Però prima una canzone, direi. Va bene. Allora, qual è la canzone? Allora lanciamo dei Chemical Brothers, go. To the depths in your web, so you take explosive, get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes, no time to rest. Just do your best. Is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Solo, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly, sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We gon' go. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins. In studio e ciao. Valentina, raccontaci la cammella. Sì, la volete davvero sentire? Vale, cioè racconti però un po' accelerata. Ok, allora parlerò veloce veloce. Allora, c'è un tizio che va in un villaggio e deserto, va a lavorare in questo villaggio che è deserto, lontano dalla città, chilometri e chilometri. E allora veloce, c'è vale. Ok, non devo usare i sinonimi. Allora, c'è un tizio che gli fa fare il tour, no? Allora, qua ci sono i bagni, qua c'è la cucina, perché è tutto comune, una specie di campus, no? Dove stavano gli operai. E nell'esercito. E allora, niente, praticamente gli fa vedere dove è la cucina, dove è il bagno, dove è il dormitorio. E poi fa, e qua c'è una stalla con una cammella. E lui fa, perché una cammella? Cosa serve una cammella? Sai, dopo un po' viviamo soli uomini, sai, uno ha le sue esigenze. No, no, che schifo, non ne voglio neanche sapere. Ma sei sicuro? Sì, sì, sì, non ne voglio neanche sapere. Va bene, io ti ho avvisato. Passa un mese, tutto bene, due mesi, tre mesi, quattro mesi, inizia a diventare un po' complessa la faccenda. E allora non ne può più, insomma, ogni uomo ha le sue esigenze. Si tappa gli occhi, si tappa la bocca, si tappa il naso e fa. Intanto c'è fuori, entra nel coso della cammella e fa un po' schifo, però non ce la faceva più. Allora esce e un suo amico gli fa. Già fatto, ma come già fatto? Già una volta più che sufficiente. Fa, ma come? Cioè, prendi la cammella, vai in città, fai una prostituta, torni indietro. A questo punto dovresti. Grazie, Vale. Adesso diamo una spiegazione rapida. Non doveva fare sesso con la cammella, doveva andare a scoparsi una prostituta in città. Basta, finita dopo la barzelletta. Questa illustrazione. Grazie. E io gliel'ho fatto venire in mente. Vale, comunque mi hai stupito con queste tematiche. Tu, eh? Senza faccia. Ma la cascata non è cominciata. È cominciata a piovere. So. Comunque, lanciamo la, no, la futura canzone? Cosa? No, un attimo? No, ok. Quindi, per esempio, tu, Eleonora. La lanciamo o no? Ma non lanciamo la canzone un attimo, cioè adesso va bene a cammella, però con calma. Beh, dobbiamo riprenderci dalla cammella, quindi... Che non volevo... Cambiamo velocemente argomento. Cambiamo argomento. Altrimenti... Diciamo che fa caldo. Al tema di cammelli. Ok, vale, basta. Allora, basta, se qualcuno vale. Vuole invitarci in piscina, scriva nei commenti. Viva sulla pagina Facebook. Allora, mi raccomando, se le pause di silenzio imbarazzanti le puoi cancellare, per favore. Sì, grazie. Certo, quelle sì, okay. Ovviamente. Grande. Beh... Dopo queste pause imbarazzanti. Ma cosa farete voi quest'estate? Parliamo di cose interessanti. I vostri progetti. Iniziate a parlare alla radio. Guidate. Ma io penso che la gente lo sappia già. Vabbè, raga, allora basta, la puntata è finita. Stasera c'è Meg al Cavaticcio, se vi interessa. Stasera. Stasera. Stasera reale. Stasera reale. No? Ci sarà il Battiato il 27. Ma non lo dire, non Fabio, vero, cazzo. Non c'è il Battiato il 27. Non c'è. E dopo, che, non, e dopo che sappiamo no. Che non c'è Battiato, lanciamo una canzone, direi. Però aspetta, di che il 27 c'è il Gay Pride. Il 27 però c'è il Gay Pride che parte dal Parco del Cavaticcio alle ore 3. Non mancate! Vabbè, comunque lanciamo una canzone. In, visto che, Fabio, per favore, visto che è una canzone in spagnolo, la diciamo o io che devo andare in Spagna o la Visa che c'è andata. Visa la spagnola. Con i mori. Perfetto, vai Visa. Noi Bongo Batraco con Revoltosa. Bongo Batraco Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Cosas, te diste cuenta que hay que luchar con tu sonrisa hermosa. No tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra esperando tu señal. Te quiero Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero. Te quiero Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Te espero, me muero, Revoltosa. Yeah. Vabbè, dopo questo fuori onda, bentornati. Bentornati. Bentornati, siamo freschissimi perché ho appena buttato un po' di sangria sulle gambe. Ma la sangria a pranzo, Carmelo, ma che persone frequento? Ragazzi, non lo so. No, la sangria a pranzo è pregio. Carmelo, cosa farai quest'estate? Boh. Come boh, dai, dici ma qualcosa. Dai, Carmelo, era l'unico oltre tema a studiare per ingegneria, che sappiamo che fa ingegneria. A casa e starò al mare tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì. Sul mar glaciale artico. Ci sono cose. Dove abiti? Mar glaciale artico, dove non c'è più vita. Ovvero? Allegria. Ovvero? Oh, allegria! Sì. Un bel applauso! Grande! Vabbè, dopo questa cosa. Beh, tu, Stefano, invece cosa farai per le vacanze? Vabbè, oltre a studiare per i provini che mi spettano l'anno prossimo. Per Miss Italia. Per Miss Italia, ovviamente, perché sono bellissima. E sei bellissimo! Votatemi, e io prometto la pace nel mondo. Provini di cosa, dai? Provini di accademia e di teatro, bravo, fondamentalmente. Dopo questa laurea faticosa in chimica industriale, di cui sicuramente Stefano, vi importa. Siamo qui per parlare di te. Comunque, per favore, cioè già rotto i coglioni, parla di quello che devi allora, fare quest'estate. C'è un festival che parte dal 23 luglio e arriva al 26 luglio, che si chiama Apolide, a Via Alfrei, in provincia di Torino, che è un festival gratis, in cui c'è l'alloggio gratis. E ci sono degli artisti di tutto il panorama italiano che vale molto la pena. Comunque sostenete Marta ai provini di X Factor. Sì, perché avrete già notato che la mia voce è stupenda e pensavo appunto di partecipare. Ma non ci interessa, alla fine mica vince chi sa cantare bene. Infatti dicono le persone simpatiche, quindi votate Marta. A proposito di persone simpatiche, Bisa, lanciaci una canzone. Un'altra. La canzone è di una casa discografica di Arezzo, da dove vengo, e loro sono i Fask, che era i Fask, stata... Fask. La Bisa non sa dire il nome, esatto, completo. Però sarebbero i Fast Animals and Slowly. E la canzone si intitola La canzone si intitola Treno, treno, treno. Via. Mate. Bentornati, l'allegria. Non era morto. Allegria, abbiamo Don Fabio da Foligno. Non mai. Allora, torna al tono da prete. Ok. Beh, siamo in conclusione. Siamo in conclusione. Cosa inizio dirai nella tua la conclusione omelia di una cosa che non è mai iniziata. Non mai iniziata. Ecco. Inizio, secondo me, con un brindisi in poesia che potete utilizzare, magari alcuni di voi già lo conoscono, e fa così. Menomelia. Non brindo al melo, non brindo al pero, non brindo al sole che le spighe indora, ma brindo al fico e alla sua signora. Che finezza oggi tra cammella e fico! Cioè, era il clou della tra la cammella e... Dopo la cammella non si poteva fare. Beh, dobbiamo fare dei saluti a questo punto, perché... Buone vacanze a tutti! Io vi saluto perché questa è la mia ultima puntata, vi saluto. La vita sta per mettersi a piangere. Cari 10 milioni di telespettatori, la mia ultima puntata, sì, con la vostra morte nel cuore. Telespettatori, radiospettatori, radioascoltatori. Radioascoltatori, magari. Radioascoltatori. Mi raccomando, tutti i fan di Stefano, potrebbero per favore scrivere un post a qualche parte? Potrebbero dare un segno di vita. Vi saluto e lascio, adesso mi muto. È morto. Per favore, riempiamo questo silenzio. Ciao, ragazzi, questo buco. Andate tanto al mare che fa caldo. Anche in montagna. Non votate. Anche in montagna. Accendete l'aria condizionata. E per scusarci, possiamo dire che abbiamo bevuto un po' prima di fare questa puntata. Non è vero. No, ragazzi, noi non beviamo mai. Bevete poco e consapevolmente. Specialmente se siete alla guida. E ci state ascoltando dalla guida. Quando siete alla guida, parcheggiate e dormite lì. No, non si può fare, è contro la legge. Questi sono dei buoni consigli per arrivare a casa. Ragazzi, abbiamo superato il tempo a nostra disposizione, quindi un ciao generale. Ciao. Lanciamo l'ultima canzone che è... Buone vacanze a tutti. Do the shout, MPA. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Just some for some, no name, not for love. You're a sad man.